forse, più della modulazione. Sì, ecco, sono tornato, come si dice, in, in posizione normale. Sì, purtroppo quello, come si dice, è un effetto collaterale, perché ripeto, non è un apparecchio fatto né per stare qua né per questo tipo, ancora peggio per l'AM, che è nota per portarsi tutti i problemi possibili e immaginabili sulle modulazioni. Sarà qualche apparato del Mossad? No, è un circuito che utilizziamo normalmente sulle tratte digitali. Con quel sistema si riesce a coprire praticamente tutta una vasta area, praticamente tutta la Sardegna, però solo che con gli apparati adatti. Io ho voluto fare, come dire, una... le nozze con i fichi secchi, ecco, anche se poi sugli altri apparati, quelli seri, la cosa è totalmente differente, ecco. Sì, io già mi aspettavo qualche segnale vobulato, che ne so, scrambrilizzato, roba del genere. Va bene, c'era anche Eugenio, vediamo se lo fanno parlare. Eugenio, riprendi. Buonasera, ma allora Marcolì, buonasera a tutti. Come va? Da un po' non ci sentiamo. Si tira avanti, tra una minaccia e l'altra, vediamo se riusciamo a schivare anche la macchina di Putin, eccetera. Piano piano, già riusciamo anche qua. Brutti questi 2 anni, Va bene. Gianfra, ho scoperto dopo 2 anni o più che ce li avevo, che allora il CRT 7009 e il 9009 hanno incorporato il moduletto SMD, scusa, no SMD, perdonami, il moduletto CPCSS, BCSS, che credevo fosse opzionale, però solo, funziona solo in FM, fatta apposta perché forse l'emissione è più pulita, capito? E praticamente ti chiude tutto, senti solo chi ha il subtono. Il digitale credo sia di qualità superiore di CSS, perché se senti anche un fischio fiasco in propagazione, magari un po' te lo apre i toni normali, no? I subaudio. Digitale no, deve essere quello o niente. Sì, innanzitutto buonasera Eugenio, buona domenica, ben ascoltato. Sperando che mi ascolti, perché non so, io sono con i soliti 4 watt. Sì, anche questo ce l'ha, c'ha CTSS, poi non l'ho mai provato, quindi non so come vada, se vada bene, se vada male, funziona solo in FM, confermo. Avanti Eugenio. Sì, ti ascolto Gianfra, buonasera anche a te. Insomma, ti ascolto. Buonasera, buona domenica anche a te. Sì, sono contento. Aspetta un momento un pochino, dato che ecco, forse così va un pochino meglio, non è molto, però dovrebbe andare un pochino di più, era proprio al minimo. Niente, va bene, quindi anche tu ci ascolti, basso, ma ci ascolti, sta levando un po' di propagazione. Riprendi Marco, io devo uscire un attimino fuori per chiudere la persiana che vedo che è già buio. Sì, già buio, non faceva mai buio oggi, con l'orario spostato e suonare luce in più. Poi io sono tutto in giro pure la testa con fare prove, controprove, eccetera, proprio sono stordito. Riprendi Eugenio. Sono andato perché ti ho sentito a salutarti, ti ripeto, eravamo un po' a sentirci. Cosa mi racconti? Tutto uguale, una specie di limbo, tutti i giorni uguali, tutte le giornate uguali, commissioni, coso, mangiare, andare a letto, non cambia mai niente qua. E quando mai? Aspetta che sto a prendere il coperchio dell'apparecchio, un attimino. Vediamo se è rientrato Antonio. C'era anche Antonio, va bene, ascolto, caro, sta lavorando alla Formula 1. Antonio, ci sei? Marco, sono tornato. Sì, ho tolto il coperchio che era senza le viti. Adesso vedo se... riesco a migliorare qualcosa anche qua. Eugenio, ho sentito che è andato via forse o no? No, no, è qua. Ah, ok. Fuori c'è freddino, eh. Eugenio, non sei al lavoro, vero? No, ragazzi, oggi no. Per fortuna. In questi giorni te la sei vista brutta, no? C'era un pochettino di casotto, no? Ma per via degli autisti, per via degli scioperi. Sì, confermo. Assolutamente. Eravamo lì all'ingresso del porto, ma è durato un giorno, niente di preoccupante. Vergognoso. Eugenio, è portante, sì. Eugenio, non so se mi senti, c'è la portante. Vabbè. No, non è qualcuno che non esce, è troppo lunghi i passaggi. Vabbè, pazienza. Adesso ci sono anche l'inglese in mezzo, cosa sono? Mario? Eugenio, purtroppo mettono una portante, quindi non riusciamo ad ascoltarti. Oh, queste bobine le hanno, almeno due le hanno volute annegare sotto i cavi, è una cosa incredibile. Ascolta, proviamo quell'attrezzo in FM, voglio vedere se migliora qualcosa. In quale però? Questo oppure il presidente? No, per me è indifferente. In FM, adesso siamo in FM, passiamo in FM. Ah, ok. Vediamo un po' come va. Vulce, sì, allora, ormai sto sbarellando, Vedi un po' se esce di radio. Sì, io ti sento. Tu mi senti? Maluccio. Porca paletta, mi è caduto il coperchio, meno male che... Sai, un attimino. Funziona ancora, sì? Sì, sì, che è successo? Io ti sento, Maluccio, perché è spostata la ricezione MFM, anche. Muovo tutto il clarifero a sinistra, dai, vediamo se migliora. Parla un po'. 1, 2, 3, come avete fatto a spostarla in FM? Questa maniera di toccare, quello che non dovete toccare. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova tecniche di centratura, vedi un po' se ne cavi il piede, prova. Vabbè, ho spostato il clarifier, tutto a sinistra. No, questo era già così di serie. Era già fuori frequenza di serie MFM. Vabbè, ma laterale poi non ne parliamo, era stato già recuperato un tempo. È una rottura di scatole però, cioè. Come fai a prendere un apparecchio senza taratugi e con tarature sommarie proprio, buttate così, anzi non fatte proprio le tarature? Anche quello succede. Quindi adesso è migliorato, posso attaccare o no? Ah, quel giocattolo di prima, quello l'uccellino, vai. Sì, vediamo se anche qua fa il 3, penso di sì, però proviamo, un attimino che riattacco il coso. 1, 2, 3, prova. Attenzione Marco, mi ricevi? Sì, ti ricevo senza uccellino, c'è solo un lieve crepitio di fondo e si è sentita appena una selettiva appena hai premuto. Sì, quello è obbligatorio in questi settimi un po' strani, ecco. A parte il rumore di sottofondo e quelle cose belle lì, ripeto, è dovuto soprattutto alla mancanza di schermatura e così via. Devo sapere se la radio è assolutamente comprensibile oppure se c'è qualche problema di comprensibilità. Solo dal punto di vista di capire il parlato. Allora, si capisce il parlato, ma è molto più brutta di della modulazione normale. Sì, vabbè, quello è normale. Quello è normale che sia brutta. Aspetta che abbasso anche un pochino, vediamo se mi trovo che cosa, ma... Dopo c'è la carica, non mi ricordo più. Ecco, vediamo un po' se così ci va più d'accordo, ma penso che non sia cambiato niente. È più brutta perché non è fatto per questo qua. Ecco, com'è il cupa, dimmi tu. No, la qualità è cattiva. Cattiva qualità, non lo so. E poi c'è questa specie di crepitio, accompagnata da un crepitio, insomma. Invece in AM era proprio diversa, c'era un chip che come volume era più forte, ripeto, della normale modulazione. Però si capiva anche lì. Sì, non purtroppo è così, c'è poco da fare, vediamo. Non posso mettere. Adesso dipende anche da qualche regolazione, ma adesso da baracchino cosa prendete. Sì, intanto mi hai detto che non è fatto per questi usi qua. Tra apparato e apparato magari sarà eccellente la modulazione. Ciao Luca. Allora, sono rientrato. Comunque sei malissimo Gianfranco qua, Male, male, male. Tu sei perfetto. Dai, che sto riparando un computer, rimango in ascolto, Marco, riprendete. Ah, vabbè, ma lui sta usando una cosa speciale adesso, non è la modulazione normale. Ehi, Gianfranco, sì, io sono col mic di serie. E come vabbè, no, niente, tralascia, già andare. Mi ha detto già che mi senti bene, va bene così. Sì, ciao Luca, buonasera, sono tornato, ho sganciato l'attrezzo. Sì, non è fatto per questo apparecchio, è fatto per roba più seria. Ma siccome i connettori sono uguali, ho tutto unificato, e quindi ne ho subito approfittato anche per provarlo di lì a vedere cosa succedeva. Penso che questa sia migliore, me l'auguro almeno. Niente, non si riesce a accedere alla bobina L19, c'è tutto un mazzo di cavi, o noi straccio tutto e faccio danno. Ma stai toccando qualcosa, perché ho sentito solo metà passaggio con un fischio, un tu, un tri, tu. C'ho l'apparecchio aperto, sto sfiorando qua la roba, vediamo. Tocchiamo, sto toccando, sfiorando i cavi interni. No, per me la radio va bene, non è forte, però va bene. Considerato che è il mic normale, quindi va bene così. Mi ha detto che mi sentivi tutto sbrindellato. E la qualità della modulazione era peggiorata, più crepitio, tutto lì. Sì, questo è il mic normale, Gianfranco, quello originale della radio, mic che è una manetta, modulazione FM, tutto qua. Ah, capito. È così. Certo... Non toccare le bobine, quelle cose lì, quelle sono rognose parecchio, Se sbagli lì ti inguagli l'apparato. Vabbè, è proprio lì. Ricentratura, ricezione M ed FM. Sì, perché devo andare indietro col clarifier. In AM vabbè, non c'è una cosa tanto, però è al limite. Che palle, vabbè, se vogliamo, per esempio i president sono molto più curati, più centrati in AM/FM, in banda laterale, come escono dalla scatola sono già di lusso. Beh, sì, questo è come uscito dalla scatola, infatti non è deciso, solo che è troppo caro il tuo è carissimo, quello che c'è al frontale davanti, che c'è la banda laterale eccetera, non mi viene il nome. Però stavo facendo un pensiero su quello, poi invece c'era questo, un'offerta, e ho preso questo. Però sì, tradizionalmente ha fatto sempre degli apparecchi buoni. Ma tu che prezzo hai visto? Perché guarda che l'hanno... Allora, Media Globe ha fatto il solito l'offertona di lancio, che era non so se 169 o 179, adesso 269, a seconda del ladro che trovi, capito? Prezzi esorbitanti, io non ho pagato come il prezzo attuale, assolutamente, no? Non l'avrei mai preso. Sì. Ascolta, faccio una prova con un altro apparecchio, dato che corrisponde il tutto. Faccio una prova con l'altro, vediamo cosa succede, se migliora. Provami tanto, che dobbiamo fare? Ancora non è ora del film. Prova un po', io sto cercando di trovare una via tra la treccia di cavi qua. Vedi, gli SMD sono più puliti, non c'è il cavo in mezzo, tutto sembrano cellulari. Vediamo un po', ecco. Non so come sia adesso la radio, se vada bene o vada male. Insomma, dimmi tu, okay, c'è una male ristazionaria, sono attenta quasi. Allora, è migliorata la modulazione, la qualità della modulazione è migliore. C'è sempre il crepitio di fondo e poi la solita selettiva a inizio trasmissione, che credo che sia ricevuta da un altro apparecchio. Cioè non sembra una cosa ascoltata da un altro parlante vicino, tutto lì. Ecco qua, adesso le stazionarie sono calate fortunatamente, ho cambiato antenna, perché sennò era un casotto. Quindi mi confermi che è molto meglio, vediamo un po', riesco a ascoltarmi. C'è un po' di QRM sotto, confermi? Sì, quel crepitio è abbastanza fastidioso, però la modulazione è molto migliore di prima. Prima era cattiva, non so definire come. Non mi aspettavo che fosse così, Pensavo molto peggio, quasi che non uscisse di radio. E invece mi sta dicendo che comunque mi capisce senza particolari problemi. E questo è senz'altro positivo, perché la parte più complicata non è ricevere la tua emissione, ma trasmettere praticamente. Il problema è tutto lì. Eia. Quindi confermi, tre apparati con lo stesso sistema si copiano perfettamente quelli, no? Cioè senza crepitio, immagino, no? No, forse abbiamo parlato in due. No, ti dicevo, si ascolteranno bene tra di loro senza crepitio, spero, sì. Dunque tu arrivi perfetto. Per te non ci sono problemi, la ricezione arriva perfetta. No, questo è un sistema che gestisce, può gestire tutto praticamente, capito? È stato creato per funzionare in modalità digitale è tutto un altro pianeta. Qua purtroppo l'analogico fa questi scherzetti e quindi ci dobbiamo tenere, in un certo senso. Si possono migliorare, eccetera. L'apparato che sto usando è un apparato grande, proprio di quelli a te ti sento 20 volte meglio, proprio stereofonico, su questo. E niente, è stato fatto proprio per evitare l'utilizzo dei ponti radio. Ma chissà che roba è, che principio sfrutta, eccetera. Cosa ti volevo chiedere, vediamo, sono al limite, stasera, tutta la sera che cambiano apparecchi, facendo, provando, ascoltando, sono un po' fuso. Ti volevo dire, allora, i Bracchini in poche parole dovrebbero avere questa FM a 2,5, no? E l'abbiamo già detto, però io avevo letto questa normativa ETSI, non so se fosse del 2014, che parlava di deviazione per gli apparecchi, credo anche CB o soprattutto CB di 1.4 kHz, solo che così come escono dalla scatola, probabilmente anche questa, era chiusissima che mi sentivano male, cioè anche gli apparecchi omologati, tutto a norma e cosa, mi sentivano basso di radio, usciva ben poco di modulazione. Ma e quindi quale vale? 1.4 o 2,5? A livelli anche di omologazione, eccetera, e poi questa norma ETSI cos'è? roba che si mangia, lo sai? No, no, ho capito, hai detto norme? Anto, siamo in FM, Etsy, Eco, Tango, Sierra, Imola. Sembrerebbe ente telecomunicazioni internazionali, forse ce l'ha essere, non ricordo, comunque dovrebbe essere ente telecomunicazioni internazionali, quelle cose lì, insomma dovrebbe essere l'agenzia che regola gli standard. Sì, qualcosa del genere, però sai, i testi sono in inglese, se non ho, la pagina internet la posso tradurre più facilmente, il PDF, vabbè, dovrei usare applicazioni, non so nemmeno se ci siano, per tradurre il PDF, immagino di sì. Antonio, siamo FM, ci copi? Sei passato? Antenna piccola, com'è? Buono, direi buono, dai. Limitatamente al mio apparecchio che è fuori frequenza. KK, non mi vedi la nuda, non mi ricordo dove era l'FM in questo apparecchio. Allora 87 sto modulando, Eia, oh, c'era anche Eugenio, porca miseria, tra una prova e l'altra, è una portante e l'altra, più che altro ce lo siamo dimenticato. Più che altro per colpa della portante. Eugenio, c'è ancora? Si era buriato, fuori aspettare. Però nota, la portante attaccava quando c'era qualcuno di basso, capite, in modo da non farlo sentire. Che bello, bello sempre accendere la radio. Poi mi chiedono come mai entro raramente. Ma perché, chi è il tuo stronzo? Break! Avanti il break! Buonasera a tutti! Buonasera anche a te, Daniele! Noi siamo in FM! Non lo so. Dice che c'è la portante. Non so più cosa. K, ciao Marcolino, ben sentito. Ciao Daniele. Sì, prima c'era una portante tipo 9.15, adesso a Cabingiosso, lo Smith, non volevo bene. Tipo 9.15 chiudeva Eugenio, che era da Poro Torres, e lui ce lo chiudeva. E vabbè, pazienza. Sai, il solito testa di, capisci a me? Un capo di cazzo, Ah, brum brum. Lugariello. Daniello. Ma io bene sto andando, sì. Ma sei 9.50, sì. Vabbè, la radio va bene, sì. Va bene. Io spero che anche in FM vada bene questa radio. Come sto arrivando con l'antenna piccola? 9.40, sì. Già va bene, dai. C'è l'antenna piccolina. Un rocchino di cocoro, Gianfra, scusate un attimo, e poi vi rilancio. Come li senti loro? Così mi regolo. Sto tentando di accedere a sta bobina, ma è una selva qua. Come li senti loro? Non vi sento tutti bene, più o meno tutti bene, quindi senza problemi. Ascolta, mi hanno chiamato purtroppo, quindi ne approfitto per salutarvi. Buona domenica a tutti, buon proseguimento. Ci sentiamo alle prossime. Scappo via, Marco. Riprendi tutto. Io rilancio direttamente per Antonio. Antonio, fai un passaggio che guarda il segnale tuo. Ciao Gianfra, buona cena, buon tutto e alle prossime. Vai Antonio. Guarda, non sono con l'antenna grande, sono con l'antenna piccola, com'è? Hola. Tra 9.10 e 9.15, dai, una cosa a metà, dai. Poi c'ho lo smitter capovolto, non so se influisca, perché mi falsa un po' i segnali. Appagata. Ma già funziona lo stesso anche questa, dai. Sì, va benissimo, dai, io rilancio a Daniele, faccio una pausa perché sono fuso proprio, vado a bere, vi ascolto, vado a fare la pipì, la pupù, vai Daniele. Ehi Marcolino, fai pure, no, io vi ascolto tutti bene qua. Bene Meda, Antonio lo sento benissimo di radio, Luca lo stesso, a te lo stesso, va bene, meglio così. E prendi Lugarie. Ah, a questo punto possiamo passare in AM, io rimango all'ascolto. Tanto le prove dovevamo fare le abbiamo fatte. Vai Daniele. K, andiamo in AM? Andiamo in AM. Ora, ora vedere in AM. Siamo già in AM. Mamma mia, per carità, non mi piace l'FM a me, boh. Ecco. Cambiato il segnale adesso. Dammi un secondo. Io vi lascio, ce la risentiamo. Che vorrà vedermi una cosa in TV. Ciao ciao. Sì, ciao a tu. Amati Daniele. Ciao Antonio. Ciao ciao. Daniele, differenza c'è da te. Sì, andava là. Daniele, forse l'hanno chiamato nel QTH, magari stanno cenando a quest'ora. E la Ferrari, finito, cosa ha fatto? Niente, non pervenuta. Va bene, QRX per me, dai. Oh, sono spariti tutti, Daniele non risponde. Antonio ha detto che boh, deve vedere roba in TV. Io sono collassato perché mi sto riposando tanto. No, tutta la sera, dalle due pomeriggio ho preso questi apparecchi. Io oggi non ne ho, sono da venerdì che manco, capito? Solo la domenica a quest'ora, perché diversamente non lo posso usare. E così rimane, non mi interessa, tanto non vedi nessuno minimo, ma c'è nessuno. Deve aspettare la gente che entra. E va a vedere muni Marco. Ma ti matta un flash. Un casino, sono un ti matta. Il figlio mi vendo tutto, non mi credi? Faccio tutto un pacchetto. Faccio un unico prezzo, il figlio mi vendo tutto. Tanto cosa. Noni, non vendere nulla che sta iniziando la propagazione. Ieri era sublime, oggi mezzo sublime. In banda laterale, in canali alti. Ma. Boh, ma non è sta cosa, boh, no. Un casino, E poi si vedrà. E ci vuole anche quando arriva la truscia, un casino. Quando arriva la? La truscia. O non ci sono soldi, mi. Vabbè, io sono abbonato alla truscia, pazienza. Pazienza. Vabbè, ma. Tu bene o male, magari ti riesci a raccimare qualcosina. Io, se non mi devo da fa, un casino. Non ho detto a mamma, no. No, assolutamente, ma anche no. Io quel gruzzoletto che mi sono messo da parte, ce l'ho un gruzzoletto, ma devo pagarmi il dentista. Certo, già detto. Però mi devo dare a fare, sennò è veramente critica la cosa. E io qualcosina online riesco a farlo. Vabbè. E anch'io sono messo male, dai. Chiappa. Daniele, ci sei? Non farà di te. E poi adesso sta veramente su internet, su eBay mi sembra, o su Amazon, che c'è la scatola del 3009 per 50 euro lo stanno vendendo. Roba da pazzi. Però guarda. Non lo so, ma ce l'ho anche buttata, ci credi? Ecchime, ci sono. Mi pare sia proprio dall'Irlanda, non dall'Inghilterra. Tipo 43, tanti più la spedizione, un bel soldi. Ma io ho visto, ma poi Smither, 30 euro, lo Smither con i cavetti originali. La manopolina singola, 29 euro, o sterlina, cioè non mi ricordo. La manopolina singola, tipo tenesse la manopolina del volume, non la doppia manopolina, la singola, quella più sposata, 29 euro. Ma che ci sono macchi? Chi si è affidato di ricambio? C'ho la mascherina, a Daniele, stiamo chiamando. C'ho la mascherina, vabbè, un po' graffiata, Poi c'ho il pomello grande dei canali, e poi io ho il pomello del volume, l'altro, i due, e poi ne ho di quelli che ci sono al centro, quelli dove c'è SVR Cal e quello delle bande, là, quello lì. Meglio conservati, sembra che mi servono a me, capito Marco? Beh vabbè, se le fanno pagare queste cose. Invece lo Smith, io l'avevo visto, tipo 17 euro così, 20 euro, una cosa del genere. Però dai, mi ha dato Gianni a me, per quanto riguarda l'iPhone, che mi stava dando problemi. Eia, Dani, adesso ti rilancio. Sì, stanno vendendo tutti i ricambienti a prezzi esorbitanti, cioè l'altro giorno PS ho cambiato le 9 col display rosso, ma le bestemmie ho tirato, devi smontare tutto l'apparecchio, poi è microscopica a saldare questa cosa, io non ho né la vista più né le mani ferme, perché mi viene il panico, la rabbia. E poi vai a rimontare, ti cadono le guarnizioni antipolvere dalle manopole, le guarnizioncine, quei feltrini antipolvere del coso, io lo voglio tutto, ci deve essere tutto. Ogni tanto ti cadevano quelle piccole, non so se l'hai vista, quando metti le manopole frontali, quelle cose tenere fanno da guarnizione di tenuta, credo, per le manopole stesse, no? Quello farino piccolo nero, un cerchiettino nero, niente, ho dovuto cercare tutto, viti cadute e cose, ho ritrovato tutto, ma le bestemmie, non ti dico. Marco, se non ce la fai, te la metto, lo faccio, non c'è problema. Io già mi assillo, io me la pensavo blu, a me piace un sacco blu. Non è difficile, come dici tu. Devi avere un po' di pazienza. Beh, certo, devi staccare la mascherina, tutti i pomelli. Daniele, ti prendo un attimino, tu due secondi che devo fare un video, che lo devo mandare a un amico del computer. Mi prendo. Erotico? No, del computer, la velocità di Google. Io porno sto facendo. No, dicevo il video, erotico. Fuggita. Oi. E quindi è così, Marco, ti stavi accennando a sistemarti la radio. Sì, vabbè, quello che posso fare, ma qua è una selva di cavi, proprio dove c'è una bobina in particolare, quindi no, lo sto cercando di fare con calma, perché se no mi viene la rabbia, la tremarella ed è peggio. È più forte di me. Io non sono per queste cineserie, sai, queste cose di pazienza, mi saltano i nervi subito me, Daniele. Perché tu devi lavorare di fino e sperma microscopica, ci vuole niente, vista buona, ma non ferma soprattutto. Se no è un casino. C'è roba a saldare SMD, ah, mi ci vedi con la stazione saldante, la lente, mamma mia, mamma di turchi, no, meglio farlo fare altri. quello sì, ecco, è un casino di venta. Cattivo ne cremo, poi lascia perdere, gli acciaroli sono da Torino, ve lo appena piccolino, no, non ho più voglia neanch'io. No, premetto che a me saldare non è mai piaciuto, però poi ti manca il flussante, c'è cioè quella pasta schifosa di 40 anni fa, la stagno salda, quella marroncina mi, che peraltro è corrosiva poi, per carità, che schifezze. A me lo stesso, ho sempre detto saldare, sia a stagno che a elettro, l'oraio, soldatrice. No. Vai, che a stagno è la mia passione, guarda. Soprattutto quando sono piccole, ma ancora più bello. Vabbè, ci vogliono gli attrezzi adatti, ci vuole, se non vuoi fare danno, che magari le saldature sono attaccate vicine, ci vuole il flussante. Il flussante serve per non far attaccare le saldature. E beh, da ridio, invece la saldatrice è quella elettrica, come stai dicendo tu, non, sono sincero, non so, non con che parte iniziare. No, ci riesco, ma Federico, togli la maschera, metti la maschera e vedi la luce, e perché poi la fai occhi chiusi, però no, è un casino. Daniele, ma ormai non ci sono quelle maschere con quello schermino LCD, perché all'istante che manco te ne accorgi, si oscura all'istante finché c'è la scintilla. Sì, meno male, dopo un secolo hanno inventato quelle maschere fotocromatiche, che come vedono la luce della saldatrice le mettono subito scure, e quindi vedi sempre la luce come stai saldando, poi come smetti si riprendono subito, te la puoi anche regolare, capito, la sensibilità. Ah, sono fotocromatiche, io ho letto qualcosa LED addirittura, cioè come uno schermino LCD trasparente, c'è un sensore nell'istante, proprio un centesimo secondo ci mette che scocca la scintilla della saldatura, si oscura, ti permette di vedere, di non diventare secco, e poi appena finisce la scintilla ridiventa trasparente. Oh, non so se si abballa, l'ho letto su internet, magari sono solo fotocromatiche, boh. Ah, già ci sono quelle che la luce diventano scure. Soltanto che ultimamente sono diventato allergico pure ai fumi della saldatrice. Anche se mi metto lontano è come se avessi saldato anche se non guardo. E già l'odore è brutto, credo che non siano nemmeno sanissime, adesso non so cosa produce la saldatrice, però già l'odore sembra roba abbastanza lonfia. Luca, riprendi. Ho fatto un messaggio al padrone del computer. È a posto, a posto. E quindi a posto è quel computer lì. Abbiamo di virus, allora il discorso è questo: quando installi qualsiasi programma anche per scaricare la musica, devi stare attento quando lo stai installando, perché secondo ci sono delle spunte da levare, capito? Insomma, metti tutto mondezza dentro, lo rallenti, guarda, va malissimo, insomma tra lento questo computer, adesso la pagina ci mette da aprire di Google 2-3 secondi. Meglio. No, io ce l'ho di nuovo un portatile, l'uso solamente esclusivamente per roba, sì, documenti, comprare domande e via dicendo, boh, basta. Eia. Ma io sono sempre vecchio, il mio, quello che, non so, 10 anni, 15, non lo so. E gli ho messo l'SSD come sistema operativo Windows 7. E ti consiglio di andare, non bene, di più. E il mio lo stesso, ha 10 anni, l'ho preso usato, non ho il cugno per il re. L'ho preso usato e ciccia. Usiamo solamente per queste cose. E va bene, riprendi Marco lì. Ah, non c'è Marco, riprendi lui. Andami bene, vanno bene, anche se occupi di zicchi. Poi dipende da uno come lo tiene, capito? Tieni male, il computer va male, è inutile. Che siamo lì a te alla lunga. E così, se lo tieni conto, io c'ho un po' di roba, lì, foto, cose che mi servono là per lavorare. E così. E vabbè. Domani in piazza? Non la vedi bene ancora? Io sono in malattia. Ah, come mai? Covid? No, e sono fatto male al fianco e poi ho finita ieri la verità, se no venerdì l'ho finita. Domani che faccio un'altra settimana. E non fai bene. Qui stamattina al cimitero. E di passaggio sono passato a trovare a Babbo, a tuo padre, a Stefano. Avrebbe fatto 70 anni, giusto? A marzo. E si conferma, Lugari, e si conferma, e ce l'ha ancora a scendere, tra una cosa e l'altra non ce l'ho fatta. Anche se lavorava attaccato, si può dire. Basta, è brutta a dire, poi la madre ho campusato, non mi piace più di tanto. Lo so, guarda, tu pensa che è morto lo zio di Maria, poverino. Scusi, dalla caduta, che poveracci, ha sbattuto la testa. E ormai c'era nipotino, se no sarebbe morto lì in casa. Comunque si è fatto un mese più di ospedale, era ricoverato, come si chiama, rianimazione. Stava dando segni buoni, poi è entrato in arresto cardiaco ed è morto. 70 anni, 73 anni. Ma quello gli dimostrava, guarda. Invece la moglie poverina si era suicidata. Cavolo. Perché succede così? Quello si chiama miglioramento prima della morte. Capito? Quando sembra che poi, boom, la battosta. Oh, raga. Vai, Marco. Non so se avevate sentito la notizia, vi ricordate quella famosa 18enne morta dopo il vaccino? Proprio per trombosi fulminante, era finita in coma, poi è morta di trombosi. Mi pare ieri o altro ieri, il padre, 53 anni, morto. Malore improvviso, dicono. Era tranquillo con gli amici, sotto sulle scaline. Il padre era 18enne, morto anche lui. Che schifo, poi dicono che esiste un Dio, mi. E poi ho detto, di cosa è morto? Magari anche lui di vaccino, capito? Un bel di malori improvvisi ci sono. Tanti, ne ho letti tanti come mai ne avevo visti prima, di questi malori improvvisi. è strano, in questo periodo i vaccini, vabbè, io poi sono di parte, non ho mai potuto soffrire il vaccino, ero molto contrario a questa cosa. Vai Daniele. Ehi, stanno uscendo fuori tutte queste notizie, poi bisogna vedere quanto c'è da vedere, quanto si possa attribuire la colpa a questi vaccini, che non lo dicono niente di scientifico ancora, lo scopriremo solo vivendo piano piano. Ah, scusa Marco, là, mi sa che questi vaccini un po' di danno l'hanno fatto, perlomeno a me, insomma, non è un danno grave, però credimi che non ero così prima. Cazzo, mi dimentico, adesso, devo prendere un cacciavite, no? Poi mi dimentico, cazzo devo prendere, mi dimentico. E secondo me anche per quello, perché non ero così prima. Poi magari mi sbaglio, Da quel punto di vista io ero già rincoglionito da prima, quindi quello non mi preoccupa, però troppi ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni, tutti morti nel sonno, morti improvvisamente, gente sanissima, atleti, e tu dici ma ci sono sempre stati, è vero, ma in questo periodo ne sto leggendo un bel, e poi al giornale non lo dicono mai, lo leggi sui forum, su internet, il cordoglio di parenti, di amici, eccetera, capito? Vabbè, quindi bisognava sopravvivere prima al Covid, poi dovevamo tentare di sopravvivere al vaccino, adesso dobbiamo tentare di sopravvivere che c'è Marco di Putin e chi lo provoca pure. Che te devo dire? Vai Luca. Cosa vuoi ti dica? Purtroppo non ci possiamo fare niente. Guarda, se tu sei capace, uno ha, come si dice, un ricco, ha messo un bel po' di soldini, se vai agli aeroporti o vivo o morto, non so, 500.000 dollari ti dà. E come ne ci vivo? Lì ci vuole uno fedelissimo, uno dei suoi uomini più a contatto con lui, che lo ammazzi. Però solo che non esci vivo perché gli altri che sono fedeli a Putin ti scannano lì dove sei, capito? È un casino, Cioè, credo che fosse peggio il coreano lì, Cicciottello, ogni tanto gioca con i missili, hai visto? L'altro giorno ha lanciato uno nel mar del Giappone, dov'era? Jarido se sbaglia becca qualche base americana, allora sì che scoppia la terza guerra mondiale. E comunque Putin era un frettentone prima, io l'ho sempre detto, era un ex KGB o KGB, come lo vuoi chiamare, frettentone era, come vedi, chi manifesta per la pace nel suo paese viene arrestato, e i giornalisti contrari a lui o avvelenati col polonio o spariti o morti in incidenti stradali, tutti quelli contrari a lui, capito? È un frettentone, lo è sempre stato e sempre lo sarà, anzi adesso che sta invecchiando si sta rimbambendo, capito? Poi non ho capito se è malato, qualcuno ha ipotizzato che abbia qualche malattia, forse terminale, ed è di Ghissimacchi che dice dopo di me il diluvio, cioè se ne frega, lui potrebbe lanciare i missili domani, tanto magari deve morire, e qual è il brutto, il pericoloso? La gelosia che lui magari deve morire, come stai dicendo tu, e così ha detto, ah così, allora siccome io devo morire allora faccio una strage, non gliene frega un cazzo. Comunque, vabbè, hanno fatto fuori a coso, a Bin Laden, poi hanno fatto fuori a chi era l'altro, se non mi ricordo, ma saranno così, non ammetto, devono ammazzarti comunque sia. Però vedi, quelli sono dei pellegrini più, cioè Putin c'ha un arsenale nucleare non indifferente, ci avrà molta gente che la pensa come lui, capito, che è d'accordo su quello che fa lui, vabbè, poi la colpa non è nemmeno tutta di Putin, perché dice anche l'America si fa invasione a destra e manca, chiamandole missioni di pace, perché l'America le chiama missioni di pace. Ma l'avete visto che anche i giocattoli per i bambini, i soldatini con gli aerei con i carri armati, c'è scritto sull'etichetta missione di pace, quello per indottrinarli che la guerra è giusta, capito, perché per raggiungere la pace, invece no, la guerra bisogna chiamare la guerra con tutti gli orrori che ci sono annessi e connessi. Vai Daniele. Si conferma, speriamo che così, cioè che la finisca presto questo imbecille, che qualcuno gli faccia la festa veramente, se no qua un casino diventa. Ciao, dov'è? Che? palazzo a Napoli, Vittoria, Vittoria, sono riuscito a regolare la bobina nascosta. Bene, veda, vedo così. Adesso è centrato sia in manda laterale, fatto prima, sia in trasmissione in manda laterale e sia in ricezione MFM. Sono troppo contento. Adesso chiudo tutto e me ne vado direttamente a letto. Dai, riprendete. Dopo tanto c'è riuscito. E va bene. Dai, riprendi, Lugarie. Ehi Marco, cazzo, ma che apparecchio stai toccando? Le 3009? Sì, e c'era la bobina L19 e la centratura di ricezione M, che era proprio sotto questa treccia di cavi, con la fascetta sono tenuti, cioè un mazzo di cavi che non ti permetteva proprio fisicamente, anche piano piano, di arrivare a regolare la bobina, a meno che non estracci tutto, e invece alla fine l'ho spuntata io, va bene. E vabbè, ascolta, non si regola così a occhio, ci vuole uno strumento per farlo. Come fai a dire che la radio sia a posto? Perché, come dire, prima eravate a filo, spostavo le clarifiche da destra appena e eravate già fuori frequenza. E me ne accorgevo, dai Lu. Orecchiometro, guarda, mi è uscita la centratura in banda laterale, in trasmissione mi è uscita perfetta orecchiometro, mi sono basato con un altro apparecchio che era già abbastanza centrato di suo. E Gianfranco ha confermato andava bene. Tanto i baracchini sono in AM e poi di bocca buona, però prima era troppo spostato Luca, cioè quelli FM mi sentivo male anche per quello, era troppo spostato da un lato di ricezione. E vabbè dai, fatto. Meglio così, se ci sei riuscito. No, questo qua allora, diciamo l'FM è un po' così, gracchianti mi arrivano, poco però. Per esempio tu no, ora Daniele è tipo Antonio, lo sento gracchiante in FM. Allora, se fosse mai vorrà regolare, ma non li do, curaccio così. Poi sicuramente chi ce l'aveva prima qualcosa ha fatto. E in banda lo stesso mi devo spostare col fine corsa. Poco a poco lo devo girare. Perché se non erro, mi sa che ho fatto la prova che andava, non dico al 100%, comunque. Già mi sentivano bene. È sempre un baracchino come dici tu. E quindi adesso ho due funzionanti, dai, almeno ci vedo con lo smitter in quello a LED rossi. Era stato un anno fermo amico perché era buio lo smitter, non mi decidevo mai, anche perché non trovavo la lampadina microscopica, era dentro un contenitore per anelli addirittura, l'avevo messo lì per ricordarmelo, era lì dentro, sai quei contenitorini per anelli, quando fai un regalino alle YL eccetera. Però mi ero nel frattempo dimenticato che l'avevo messa lì la lampadina per ricordarmi che era lì. Vai Daniele. Meno male, dai, ti sei ricordato. E va bene, va bene. Ti voglio dire una cosa, mi sono dimenticato. Riprendi lui. Ehi, mi sto male, la buonanotte Marina. Mi guardo, Jerry, biscotti, ok. C'è nato Daniele, no? No, tra un po'. Infatti faccio altri due passaggi e poi se no vado a cenare. Che da mai, non vuol dire non va a corsa. Sì, quando vuoi andare, tanto anch'io, tra un po', tanto dare qualcosa lo stesso, Marco, tutta la sera qua, combattendo con i baracchini. E niente, mi guardo lo show dei record, che è bello. Noi stavamo andando alla gara poco fa e era tutto acceso qua, vita sì, perché si sta scendendo più spesso. Quindi tanto sentivo parlare e adesso mi sto facendo chiacchiere con voi e poi tra un po' e vado a cenare un po' di TV e a nanna. Eia. Tanto vabbè, domani non lavori, sei malattia. Stando malattia l'altra settimana la dottoressa. Via. C'è un altro casino, neanche il torado mi sta facendo effetto, lo sai, che è forte. una di un bacciare che io faccio un esempio, se io sto, se c'è caldo e c'è la bella giornata posso stare senza cuffietta, capellino non lo sto più usando, però quando c'è freddo, Daniel, mi guida lì tu, ma di gabbo, allucinante, guarda, però la stomaletta sta un bel forte. Però faccio i capelli, io faccio i capelli un bel corti dietro, alla metà, da zero. Devo stare attento, ma chi soffre come un cara, brutto, brutto, non posso stare a forza di occhi, occhi, occhi, è tipo che ho lo stomaco, però non mi posso dire che mi ha capo un casino, invece quando arrivo alle belle giornate, la verità già sto bene, poi vabbè, anche per via del naso lo stesso, che mi si chiude, infatti devo fare un intervento, allora, da giugno c'ho un'altra visita, per vedere un po' cosa mi dicono e poi vediamo. Gara, gara. No, invece a me approfittiamo di prendere il freddo dentro alle ossa e va a posto poi tutto il santo giorno, cioè avete la mattina, con la fonte di calore guai, mi crepa, mi crepa. Ehi, comunque Luca, quello che hai detto prima dell'FM è vero, è una cosa che riscontro io su due apparecchi, Gianni il Profeta su quello che ha lui, però c'era un'altra rogna qui che era spostata di frequenza, quindi già in FM è stretto di ricezione, più si è spostato, l'FM è critica negligente. Poi se tu mi senti bene vuol dire che io la deviazione FM l'ho toccata appena il tanto da, e prima non usciva di radio, quando l'ho comprata che l'ho tolta dalla scatola era bassa modulazione, l'ho alzata appena almeno per essere udibile, non strappata, non satura né niente, e mi ha detto che va bene Luca, non FM. Sì. Cioè, guarda, se volete vedere una cosa bella, guardatevi lo show dei record. Bello, ci sono cose belle stasera. Vabbè, dai. Tanto Daniele va a mangiare, tu Marco è tutta la sera e mi guardo la TV. Dai, ci sentiamo prossimamente. Ciao, buonanotte e grazie per le due chiacchiere. Ciao. Ciao Lu, io mi volevo coricare, ma mi ha mandato un messaggio un amico, un giretto per il caffè, lo facciamo. Tanto guida lui, io posso anche addormentarmi in macchina, magari per te le segni o ragiona lì, credo, ma vediamo. Ok, ciao Luca, Daniele, anche devo staccare, il messaggio, forse arrivi vitto. Ciao a tutti, ci sentiamo a migliori occasioni come sempre, ciao. Ehi. Anche io mi faccio per chiudere. Alle prossime live, saluto a Luca, Marco. Buon proseguimento di serata e a domani se coincido alle prossime. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Via, ciao.